Di giorno son long che mai mes beis tus chans pauseis de long e camme sui partis de lai remembram d'un amor de long vau de talan en bronx e clis si che chans ni flos dal bespis non plaz plus che di verms gelaz. Una giovane donna di Tolosa, bella, gentil, onesta, leggiadria, è tanta dritta e simigliante cosa nei suoi dolci occhi della donna mia, che fatta dentro al cuore desiderosa l'anima, in guisa che da lui si svia e vanne a lei, ma tanto è paurosa che non le dice di qual donna sia. Era in pensier d'amor quando trovai due foresette nove. L'una cantava e piove, gioco d'amore in noi.

causa te ex tat amantibus hostis tostibus ex tat amica nipeti turpeti titque lucrimeti tuzzit iniqua alma domestica sum sua gaudia sum sua propria lux sua nocte ed è amica dei nemici ec nihil excipit non interpellate ex patre concipit ex qui nipote l'efferatezza fossa libidinis queste cose sono arma voraginis os viziorum ec fuit esteritet peream peritordo bonorum nulla essa esclude femina perfida, femina fetida, femina fetor dal nipote est satanetronus uc pudorestonus anc fugelector strumento degli abissi bocca dei vizi. Così essa fu, e sarà, e a causa sua andrà distrutta la schiera dei buoni. Femmina perfida, femmina disgustosa, femmina oscena. Essa è il trono di Satana. Per lei il pudore è un peso. Fuggila, o lettore. Omnibus placebam. Oie, oie, male di canturtilie, ex aviam posite, male di canturtilie, ex aviam posite. Ia vodisham divisem man, flores adunare, do voldi misce lunghe ton, e pitte florare. Oie, oie, male di canturtilie, iux sapiam posite, male di canturtilie, iux sapiam posite. Non mi pizza vigen hont, sed non indecente, erbis mis diu viselant, valde fraudolente. Oie, oie, male di canturtilie, iux sapiam posite, male di canturtilie, iam posite. Er greif mi razin its quant, valde indecenter. Er forte mir pida hand, multum violenter. Oie, oie, male di canturtilie, iam sapiam posite, male di canturtilie, iam sapiam posite. Vrom e che via pats nevus es remotum terre vec de abehans plansi et octotum. Oie, oie, male di canturtilie, iux sapiam posite, male di canturtilie, iux sapiam posite. Et statem linte folgentan non procula via, da hab ich meine Herfen lang timpanum cum lira. Oie, oie, male di canturtilie, iux sapiam posite, male di canturtilie, iux sapiam posite. Do herzu der linden com dixit sedeamus, dium in et vanzaden man ludum faciamus. Oie, oie, male di canturtilie, iux sapiam posite, male di canturtilie, iux sapiam posite. Er greif mirandem vicem nim non obscure timore, er sprach, ich mache dich ein Bib dulcis ascumore. Oie, oie, male di canturtilie, iux sapiam posite, male di canturtilie, iux sapiam posite. Er forth mi ruft dat sendem lin

Vostri in cuore. Chi è questa che ven cognom la mira, che fa tremar di chiaritate l'are, e mena seco amorsi che parlare null'omo pote, ma ciascun sospira? O Deo che sembra quando gli occhi gira, dica l'amor chi non savria contare. Cotanto d'umiltà donna mi pare, ch'ogni altra ver di lei la chia mira. Non si poria contar la sua piagenza, ch'alle s'inchino ogni gentil virtute, e la beltate per sua dea la mostra. Non fu sì alta già la mente nostra, e non si pose in noi tanta salute, che propriamente n'aviam conoscenza. Thank you. E registrare in MP3? Diciamo che dentro lui...